nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. A che punto siamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Direi, lo sappiamo tutti, in una vera impasse. E tutti ci chiediamo, insomma, cosa succederà, cosa faranno. Cerchiamo di capirlo. Anche oggi qui a Non ci sono più le mezze stagioni, sapete che il nostro appuntamento mio con voi per ragionare sui tanti fatti della settimana, naturalmente molto centrale questa cosa di un governo vacante in questo momento e con naturalmente moltissime incognite, e con l'opinionista estemporaneo di oggi, naturalmente con il vostro contributo al numero verde, cercheremo di capire un po' quali potrebbero essere le ipotesi. Naturalmente noi possiamo soltanto immaginare, perché in Italia si va oltre l'immaginabile, e poi ovviamente come sempre esprimere le vostre libere opinioni al numero verde 800 24 00 24. Ve lo ricordo sempre che è un numero verde, quindi gratuito, ma anche ecologico, perché evitate così di disperdere altrove le vostre energie, i vostri pensieri, il vostro tempo. Convogliateli tutti qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Fra l'altro, vogliamo un po' scaldarci già così all'inizio. Allora vi dico subito che è previsto ancora gelo, neve, una settimana da pieno inverno, quindi lo sappiamo subito. Ecco, vedo Giorgio De Luca che è già preso con le vostre telefonate, che manda, diciamo, gli occhi al cielo. Cioè, insomma, è possibile che questa primavera non arriva mai. È tutto un momento così, diciamo, un po' deprimente in generale, insomma, che più che meno, almeno il tempo ci aiutasse, un po' di sole, qualche mimosa in giro, l'ho vista non solo per l'8 marzo, ma se girate un po' dalla Toscana in giù, ci sono tanti alberi di mimosa, almeno quelli danno un po' di sollievo, un po' di solarità. Bene, adesso andiamo subito allora sulle cose serie e vi ricordo alcune delle notizie principali di questa settimana, poi ci dovete pensare in particolare voi. L'agenzia Fitch ieri sera, aspettato ieri sera sul tardi, questa agenzia è una delle agenzie di rating, no? Quelle che giudicano l'affidabilità finanziaria di una nazione, di una istituzione, di una banca, eccetera, di un'azienda. Ci ha tagliati ancora, zacchete, una bella sforbiciata, e ci ha portati da A- a BBB+, tutte queste A, B e C dell'alfabeto molto complesso. Ha detto: niente, anche le vostre previsioni sono negative. Perché? Perché il risultato è inconcludente, quello delle vostre elezioni, delle elezioni italiane, un risultato inconcludente, lo dice anche Fitch, come se non ce ne fossimo accorti. Dopodiché siamo, insomma, senza Papa e senza governo. Quante prospettive, quante cose potrebbero aprirsi, anche se anche per il Papa ieri i vescovi hanno deciso il conclave, quindi questa grande riunione dei 115 vescovi per eleggere il Papa, partirà il 12 marzo, poi bisogna vedere dove finirà. Anche su questo argomento mi piacerebbe che diceste la vostra, no? Tra i vari scandali, questo dossier di tre cardinali che hanno indagato sul malaffare dentro il Vaticano in questi anni, un dossier che ancora per il momento rimane nascosto, mentre per esempio i cardinali americani vorrebbero sapere qualcosa prima di votare i possibili papabili, perché se qualcuno fosse coinvolto in cose, diciamo, poco opportune, sarebbe opportuno, no, saperlo. Però poi c'è l'inchiesta, sapete, su Grillo dell'Espresso, su queste 13 società aperte in Costa Rica dal suo factotum e dalla sorella della sua compagna. Però lui ha detto ieri sul Fatto Quotidiano: è semplicemente una cosa scandalistica per sputtanarci, un polverone attorno a noi. E per quanto riguarda il Monte dei Paschi di Siena, lo sapete che si è suicidato il capo della comunicazione, David Rossi. Si è aperta l'inchiesta, potrebbe essere istigazione al suicidio il capo d'imputazione. Poi la sparatoria al Palazzo del Broletto a Perugia, con due povere impiegate uccise, e Banca Italia che dice al 65% delle famiglie il reddito non basta. E poi il processo Unipol, con un anno combinato a Berlusconi, che dice è una persecuzione intollerabile, la morte del presidente venezuelano Chavez, idolatrato, amato da milioni di venezuelani, 14 anni al potere, insomma, comunque una figura particolare. E poi naturalmente l'8 marzo, anche se molti dicono ormai è una roba, una festa da abolire, eccetera, in realtà è un post-it che almeno una volta all'anno, per quelli che non se lo ricordano mai, fa pensare, no, alla questione femminile un po' in tutto il mondo. Vi dico solo cosa ha detto Ban Ki-moon, segretario generale dell'ONU, ieri: per celebrare degnamente la giornata internazionale della donna, più che festa, giornata internazionale, dobbiamo voltarci indietro, guardare un anno di scioccanti violenze e chiederci come dare vita a un futuro migliore, fosse solo un anno, ma ogni anno fanno il bilancio all'ONU. Ne abbiamo sentite di tutti i colori, dall'India al Sudafrica, ma anche in Italia ogni due giorni una donna uccisa, di stupri di massa. E anche senza andare sulle questioni della violenza, che comunque in tutto il mondo è la prima causa di morte delle donne, uccisione da parte degli uomini, e c'è Christine Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, che dice: ancora adesso le donne nei paesi occidentali sono pagate almeno il 16% in meno degli uomini in tutti i ruoli uguali, uguali qualifiche. Quindi insomma, diciamo, una discriminazione a 360 gradi. E poi, per chiudere, volevo anche, scusate, attribuirmi una qualità di preveggente. Vi ricordate che un mesetto fa vi avevo parlato della regina Elisabetta in Inghilterra, che aveva deciso di cambiare la legge sulla discendenza per diventare sovrana in Gran Bretagna? Aveva detto: anche se nascesse una femmina da William e Kate, potrà essere subito regina. E infatti ho detto: vuoi vedere che gatta cicova, hanno già capito che Kate aspetta una bambina, e pare si sia tradita questa settimana, aspetta effettivamente una bambina. Lunga vita allora alla prossima regina. E direi a questo punto di ricordarci anche il nostro rito settimanale. Cos'è che ci dimostra anche questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Sapete, 11 settembre 2001, chi si può scordare questa data, con quello che è successo negli Stati Uniti, con quello poi le ripercussioni in tutto il mondo, e sulle questioni della sicurezza, per esempio, dei voli, no? Cosa non hanno fatto gli Stati Uniti? Adesso pure se vi portate il collirio, della cremina per le mani che si screpolano in aereo, basta, perquisiti, levati, no? Tutto, una roba incredibile, ti puoi portare manco lo shampoo, niente, insomma. Che cosa hanno deciso? Improvvisamente una cosa che entrerà in vigore dal prossimo 25 aprile. Allora, hanno deciso l'organismo per la sicurezza dei voli negli Stati Uniti ha deciso che si potranno portare dal 25 aprile, attenzione, in aereo, coltellini e mazze da golf. Vi rendete conto che finora si poteva portare la cremina per le mani, adesso si può? A me a New York, proprio qualche mese fa, volevo andare a vedere la Statua della Libertà, sul traghetto, zac, mi hanno levato il coltellino, quello, avete presente, quelli multiuso, col tirabiciò, con il cavatappi, queste cose qui, vabbè, no, pericolosissimo, via, buttare, sparito, così, che me l'avevano appena regalato, insomma. Sappiate che d'ora in poi potete portarvi anche la mazza da baseball, da golf e qualche coltellino in aereo. E c'è infatti la rivolta delle hostess che dicono: attenzione, qui noi rischiamo, poi che facciamo se non tira fuori la mazza da golf, qui ci mettiamo a giocare anche noi a golf qua sull'aereo. E per ora, insomma, c'è solo la loro protesta, vedremo cosa deciderà la Transportation Security Administration negli Stati Uniti. A questo punto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il momento di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Marcello Veneziani. Buongiorno. Buongiorno, caro Marcello. Marcello Veneziani, giornalista, scrittore, editorialista del giornale. Sai che stavo per mandarti la visita fiscale a casa. Mi hanno detto che forse hai ripreso con un pranzo. Ho detto: benissimo, visita fiscale, fatemi sapere se davvero c'è questo pranzo, perché lui aveva preso un impegno con me. È una persecuzione. È una persecuzione. E ti dico subito, in questo momento, è uscita in questo momento questa notizia, proprio in questo secondo: visita fiscale a Berlusconi, due punti, le sue condizioni non sono legittimo impedimento. A congiuntivite non vale, hai capito? A congiuntivite non vale. Non vale, è uscito in questo momento, qua. Sì, sì. Ma notizia vale. In rosso, flash sul Corriere Online. Quindi non potevi neanche farti venire a congiuntivite se non volevi partecipare. No, ma infatti non l'avevo nemmeno tentato quella strada. Ah, ecco. Sì, ma è possibile secondo te che Berlusconi se li tocchi un po' troppo questi occhi, se li tocchi e se li ritocchi? Ma io credo che sia rimasto, come dire, con gli occhi sbarrati, perché in effetti quando hai 3-4, diciamo, processi in corso contemporaneamente, annunci di condanne, credo che gli occhi, non solo gli occhi, saltino a tutti, insomma. Quindi è comprensibile questa reazione allergica ai tribunali. Io penso che sia proprio quella la vera origine, una reazione allergica, andrebbe studiata questa allergia. Psicosomatica, quindi, una cosa un po' psicosomatica. Sì, molto psico e meno somatica. Comunque, sappiate che appunto è proprio notizia adesso e quindi non vale come legittimo impedimento. Poi approfondiremo man mano che arrivano le notizie, però volevo chiederti, no, visto che forse avevi un pranzo, tu sì. che ti mangi, Marcello? Perché io dico, ti giri intorno, tracce di cavallo ovunque. Mi stavo mangiando uno yogurt, sì. Prima guardo con la lente di ingrandimento, vedete che trovo uno zoccolo, un crine di cavallo, qualcosa, non lo so. Io devo dire, ho una memoria infantile. No, di no, paese, ma aspetta, no, qui... no, ma ti faccio un elenco. Poi ci sono i cinghiali radioattivi questa settimana in Valsesia. Da Chernobyl derivano. Chernobyl c'è stato nel 1986, quando andavamo all'asilo. Io mi chiedo, per quelli che vogliono ancora il nucleare, ogni tanto ci provano, no? Dall'86 ancora sti cinghiali sono radioattivi. Pensate noi, qualcuno si è fatto gli esami per vedere se era radioattivo? Forse Marcello Veneziano è radioattivo, chi lo sa? In Francia, ieri, uno ha aperto una scatola di fagioli, zac, un topo morto. Poi, da un gigante della distribuzione francese, tra l'altro, un negozietto così. Poi, in Germania, veleno per ammazzare i topi, ma non quello dell'insalata dei fagiolini francesi, nell'insalata, insalata proveniente dall'Italia. Poi hanno trovato del cadmio dentro le cappesante e anche dentro vari molluschi contaminati. Pensa che uno dice, vabbè, allora devo andare in un posto come si deve. Vado nel primo ristorante al mondo, che è il Noma di Copenaghen, da 3 anni il miglior ristorante del mondo, 63 intossicati per scarsa igiene e per scarsa pulizia del personale. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo mangiare? Dove dobbiamo andare? Ma sai, la mia impressione è innanzitutto che si debba fare un po' di slalom, ovviamente, tra tutti i cibi, cercando di preferire quelli meno chiacchierati. Però dico, al di là di questo, deve subentrare da una parte una certa dose di fatalismo, insomma, cioè non si può vivere. Chiudiamo gli occhi e mangiamo quello che abbiamo tanto. Ecco, e dall'altra parte bisogna anche considerare che oggi, rispetto al passato, sappiamo tutto, mentre magari 200 anni fa, 300 anni fa c'erano altre forme, come dire, di cibi avariati, di cibi. E accadevano cose analoghe, pur diversi gli scenari, non c'era la speculazione industriale, non c'era la sofisticazione, quindi bisogna, insomma, essere un po' realisti, evitare questi allarmi. Questo naturalmente non impedisce assolutamente che si faccia quell'altro discorso, che questi casi vanno perseguiti, penalizzati, puniti, perché indubbiamente fanno parte di una, come dire, di una strumentalizzazione dell'uomo, cioè l'uomo è considerato soltanto merce da profitto e chi se ne frega quello che mangia, insomma. Beh, questo in effetti è l'aspetto bestiale, però ecco, l'eccessivo allarmismo, il non mangiare tutti i tipi di carne perché ce n'è una in un caso che è stata trovata contaminata. Quella di cavallo non fa male in ogni caso, lo dico, è solo che la mettono al posto di qualcos'altro, quindi insomma non è neanche quella molto di cavallo. Io ricordo nei paesi del sud era considerata una carne prelibata, ricca di ferro, certo, però lo devi scrivere in etichetta, non è che dici carne di manzo, certo, prosciutto, no, e poi ci metti il cavallo. Il problema è che non era garantita, come dire, era un cavallo clandestino che viaggiava sotto falso nome. Avete visto Questione di pochi istanti, Roberta Giordano ancora con voi, opinionista estemporaneo di oggi, è il giornalista e scrittore Marcello Veneziani. E prima avevo dato questa notizia in anteprima universale, apparsa sul sito del Corriere della Sera, poi anche sugli altri siti, naturalmente l'agenzia ANSA. Visita fiscale a Berlusconi, le sue condizioni non sono legittimo impedimento. E andiamo a approfondire anche la notizia che è arrivata adesso, sempre un dispaccio di agenzia. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno respinto la richiesta della difesa di Silvio Berlusconi di sentire i consulenti medici che hanno stabilito che l'ex premier non può partecipare all'udienza di oggi del processo Mediaset. Il processo dunque va avanti, è cominciata la ringa dei legali dell'ex premier. Questa è la notizia dell'ultima ora, diciamo dell'ultimo istante. Ma Marcello Veneziani ci stava dicendo qual è l'ultima possibilità, l'ultimo tentativo per formare un governo, e vi dico subito che sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni si sono alternati moltissimi commenti su cosa, per esempio, Bersani, che è quello che in ogni caso ha più voti alla Camera, quindi più seggi, mentre il Senato, che cosa lui dovrebbe fare. Sono moltissimi commenti, vediamo se dopo tra una cosa e l'altra riesco a leggerne qualcuno. Ma dai il tuo responso, Marcello, su... Ipotizzavo una strada che sicuramente è difficile, ma secondo me è l'unica, e cioè quella di creare comunque un governo istituzionale delle personalità con un impegno diretto del capo dello Stato e poi farlo votare in Parlamento. Perché se aspettiamo che una delle tre forze, a cominciare dalla maggiore, che è quella del PD, possa avere maggioranze, siamo campacavallo, insomma, ecco. E allora a proposito della carne di cavallo, appunto. E allora tanto vale puntare su un governo istituzionale che può avere due compiti, o uno brevissimo, quello di approntare una legge elettorale e di qui a un anno, entro un anno comunque torna a votare. È triste, lo so, ma non c'è altra possibilità, ma se si torna con una legge elettorale nuova ha un senso, se si torna con la stessa siamo punto e da capo. oppure dall'altra parte gli si dà un mandato più ampio e si cerca in un governo istituzionale di non ripetere l'errore del governo dei tecnici, che ha aggravato la situazione del nostro paese, cioè ha pensato solo alla contabilità del nostro paese e alla sua immagine internazionale, ma la realtà poi della vita degli italiani è peggiorata enormemente e credo che tutti siamo in grado di constatare. Ma quindi fammi capire, tu Marcello stai parlando di quello che definiscono un possibile governo del presidente, quindi con Napolitano come presidente del Consiglio. Governo del presidente, ovviamente non può essere il presidente della Repubblica direttamente in campo, però il presidente della Repubblica può diventare questo estremo atto prima di andare via, può diventare il garante di un governo di 10-15 personalità del nostro paese che possono avere diversa vocazione, non necessariamente devono venire dalla banca, insomma, perché ormai c'è questa idea che debbono venire per forza dal mondo della finanza. Una buona fucina, che è una delle fonti, ma non può essere la fonte. E quindi tentare un governo di questo tipo. Io non vedo altre soluzioni, perché andare di nuovo a votare subito con questa legge è una follia. Tentare un governo Grillo-Bersani è una follia, perché insomma oggettivamente è quello che propone Berlusconi da un po' PDL, PD, che a me sembra una cosa contro natura, sinceramente, però il governissimo, no? Famoso. Credo che direttamente impegni avversari politici che si sono detestati fino a ieri non credo sia praticabile. Cioè, un conto è dire che PD e PDL possono sostenere un governo di personalità, un'altra cosa è pensare che un governo di centrosinistra o di sinistra possa avere i voti del centrodestra o possa addirittura avere qualche ministro indicato dal centrodestra, che io credo che non sia serio. Quello che dice Bersani a proposito di Berlusconi, dal suo punto di vista, è sacrosanto e vale anche l'inverso, cioè per uno di centrodestra non è una sinistra normale, è l'unica sinistra europea occidentale che viene dal Partito Comunista, quindi le riserve che ci sono nei confronti di Berlusconi sono tutte legittime, ma sono parallele a quelle che dall'altra parte hanno nei confronti del PD. Quindi sono inconciliabili, in un governo, in uno stesso governo. Un conto è appoggiare un governo, cioè un governo terzo rispetto a loro. Sì, quando c'è da Monti, un conto è tra di loro. Infatti. Un conto è avere l'amministratore di condominio, un conto è poi scontrarsi tra i vari condomini. Cominciamo a sentire le vostre telefonate all'800 24 0024. Maria da Genova. Maria, sei vicina, grazie a te, sei vicina di casa di Grillo, pensavo, da Genova. E difatti la mia domanda era quella, volevo sentire il tuo parere sull'ultima sparata, che col 25% dei voti vorrebbe il governo e il Parlamento interamente dei grillini, il che sarebbe un peggioramento ulteriore della legge elettorale. Mi fa venire in mente un déjà vu, nell'ultimo trimestre del 1922 qualcuno si era spostato da Napoli a Milano per essere più vicino al confine svizzero ed era andato a Roma quando poi gli era stato conferito l'incarico di primo ministro e per più di 20 anni gli italiani hanno avuto un regime totalitario. Adesso mi viene in mente qualcosa di analogo con le sparate di Grillo. Maria, guarda, ti ringrazio per questa sollecitazione di parere. Io ti devo dire, forse il paragone con Mussolini un pochino esagerato, certo ha un po' così le physique du rôle Beppe Grillo dell'uomo unico al timone, al potere, anche col fatto che continua a dire ai grillini gli esponenti del Movimento 5 Stelle che prima devono chiedere a lui se possono intervenire, non intervenire, quello che devono dire. Questo sinceramente non è che mi entusiasmi. Dopodiché non è che dice che adesso in questo momento vuole il potere totale in Parlamento, dice torniamo al voto. Prima vorrebbe, il suo disegno sarebbe quello, ma abbastanza palese, di far scannare tra loro PD e PDL con un governissimo. Dice dai, provate a governare voi, così vi eliminate totalmente come dei galli da combattimento e poi riandiamo al voto. E lui dice io voglio il 100%, nel senso che è convinto che se si ritorna al voto avrà effettivamente, da un sondaggio, mi pare SVG, se ho visto bene, è cresciuto di 3 punti il Movimento 5 Stelle in questa settimana, mentre molti pensavano, oddio, si accorgeranno un po' che Grillo è un po' fanatico oppure che il suo programma politico è un po' vago, cosa che io ritengo, e quindi scenderà il consenso. Invece sembra che sia salito, è leggermente salito anche il PD. Però insomma non sarei così preoccupata, dice che vorrebbe il 100%, ora bisognerebbe vedere se appunto si tornasse al voto. Che pensi tu, Marcello Veneziani? Ma io credo che abbia fatto una buttata, cioè veramente non pensa con il 25% di governare il paese, solo che gode, come dire, dell'esaltazione dell'affermazione elettorale. Certo. E allora crede che naturalmente se si andasse a votare appunto ne avrebbe ancora di più, e quindi cerca di suscitare e scatenare entusiasmo intorno alla sua proposta. Quindi non mi pare di vedere in questo, come dire, segnali di una svolta totalitaria. No, no. Però c'è indubbiamente un po' di esaltazione, ecco, quello sì, è l'esaltazione di chi si trova baciato da un successo elettorale che era al di là delle previsioni. Insomma. Scusa, comunque al di là delle previsioni, no? Io mi chiedo, sì. Ritengo, come dicevo, che Grillo abbia un programma, soprattutto quello economico, che bisogna capire bene come si possa applicare. Mi pare alcune delle buone idee, però bisogna vedere se poi sono concretizzabili. Ma al di là di questo, insomma, possiamo comunque affermare che è stato, ha avuto una funzione utile al momento, perché qualcosa si sta muovendo, un po' di paura alla messa, anche per esempio la proposta di Bersani con questi 8 punti che poteva naturalmente proporre molto prima, no? Sembra che possa essere una strada senza ritorno, nel senso qualcosa ha smosso, un po' di tsunami c'è stato, questo merito gli va riconosciuto, poi dopo bisogna vedere se appunto è in grado di gestire tutto questo, questa vittoria, i grillini, abbiamo sentito qualcuno sparare qualcosa in questi giorni, ma diciamo che negli anni abbiamo senza sparare un po' da tutti, ecco, anche magari con arroganza, no? Quindi sì, no, ma io penso che indubbiamente, diciamo, faccia bene al sistema politico italiano una forza di opposizione radicale, netta, indignata come quella di Grillo. Il problema è che ha vinto troppo, cioè nel senso che avere una rappresentanza di grillini, magari Grillo stesso in Parlamento, sarebbe stata una crescita per il nostro paese. Avere invece quella folla di grillini, per di più percentualmente molto sprovveduti, cioè che non hanno cognizione di quello che devono fare, beh, credo che questo possa invece generare un problema. Allora io credo che abbiamo, come dire, varcato la soglia della salute, siamo entrati nella sfera della nocività, nel senso che fino a una certa dose un 10% di grillini in Parlamento avrebbe potuto costituire un pungolo, il 25% che non crea le condizioni per la governabilità, diventa un problema serio. E quanto al programma, in effetti ci sono dei punti velleitari, ma pensiamo soltanto al reddito di cittadinanza. Non solo un paese intanto come il nostro dovrebbe sobbarcarsi 3 milioni di stipendi automatici, ma immaginate l'effetto catastrofico che avrebbe sul paese, perché c'è gente che campa con 700 euro e sa che con il reddito di cittadinanza molti potranno avere 1.000 euro, ma immaginate che effetto, come dire, diseducativo, di disincentivo al lavoro, di perdita di ogni minimo stimolo e di fiducia nella meritocrazia. Cioè io credo che sarebbe una rivoluzione, ma al contrario, non quello che pensa Grillo. Quindi c'è qualcosa di visionario che parte da intenzioni nobilissime, ma che arriva poi a risultati disastrosi oggettivamente. Sentiamo sempre al numero verde 800 24 00 24, continuano ad arrivare telefonate, c'è Nicola al centralino. Michele dalla provincia di Campobasso, sono contenta Michele perché dal Molise è un po' difficile sentirvi, No, noi invece vi ascoltiamo molto volentieri. Molto bene. Specialmente quelli come me, innanzitutto che si complimentano perché è molto piacevole ascoltarvi. Ci date la possibilità di intervenire. Io sono tra quelli, lo dico subito, che vede pochissimo la televisione, già da molti anni. Ma molto bene. Viene da congiuntivite a guardare troppo la televisione, te lo dico, Ma vabbè. Che sappilo. Io per esempio Berlusconi non ho ascoltato più da quando 20 anni fa dice che avrebbe fatto 1 milione di posti di lavoro. Poi non abbiamo molta memoria storica. Però volevo prima rispondere al vostro ospite, sì, di cui rispetto chiaramente le opinioni. Il reddito di cittadinanza, e Grillo ha un problema, ma non è Grillo, il fatto che molte persone in Italia non hanno capito che Grillo è solo un garante, cioè non è un segretario di partito, non è un capo, ha soltanto la funzione. Beh, che la non capacità. Sia un capo mi sembra, diciamo, un po'. Ma c'è una base, cioè noi partecipiamo a un blog, cioè se lui per esempio attacca Bersani con parole cattive, glielo dice una persona di sinistra, io sono di sinistra, se lui attacca Bersani in modo violento, sul blog se ne discute, si parla, cioè lo ascolta la maggioranza delle persone. Questa è una cosa che secondo me potrebbe essere anche costruttiva per i giornalisti. Però scusami Michele, su questo hai ragione, però non ci può essere solo la partecipazione alla democrazia su internet e poi fuori dalla rete, chi fa parte del Movimento 5 Stelle non può dire la propria a un giornalista o sul giornale o in televisione, perché sennò Grillo dice no, decido io chi parla, chi non parla, che cosa si dice, no? No, se ho 2 minuti lo dico subito, allora il reddito di cittadinanza. Mezzo minuto. Sì. Lui lo propone mezzo minuto, il reddito di cittadinanza non lo propone a condizioni così, cioè devi rifiutare due lavori, ti si deve, cioè, tutta una serie di circostanze, sai che dai 1.000 euro lo propone. Seconda cosa, le 10 proposte di Grillo, tra cui per esempio l'esclusione dell'Europa, se ne deve e se ne può discutere. Tra cui? Il problema di Grillo è per esempio l'esclusione dell'Europa, però ci sono tre condizioni fondamentali. Lui dice di l'uscita dall'Europa. Vuol fare referendum, sì. Allora, però parliamo di una cosa più importante. In vent'anni penso di aver sentito dire da tutti che si doveva fare la riforma elettorale della legge elettorale e la diminuzione del numero dei deputati e dei senatori, che è veramente una cosa disgustosa, perché questo si dimentica spesso, che come diceva giustamente il vostro ospite, che c'è chi campa a 700 euro, quell'ospite lì quando ascolta e sente certe cifre che non riesce più nemmeno a capire di che entità si tratti, cioè per esempio quando il presidente di Finmeccanica prende 50 milioni di euro di tangente, probabilmente non si è reso conto nemmeno di che cosa era, dell'entità di questa tangente, perché ormai è una raffa, chiedo scusa per la versione semplicistica. Siamo d'accordo. I nostri nonni, perché i grillini in questo momento hanno fatto anche proselitismo tra i nonni che non vanno su internet. A proposito, non è giusto, è vero, escludere, però non è giusto nemmeno escludere chi invece non vuole vedere la televisione. Ci sono tante persone come me che oramai nascono solo su internet, perché per esempio in questi giorni in nessuna televisione ha parlato della Grecia, nessuna televisione ha parlato dell'abolizione vera delle province che c'è stata in Sicilia con Crocetta. Sì, sì, è vero, no, una... beh, no, qualche sito. Vero, quel giornale. Sono 4-5 anni che la televisione ci propone le solite balle, per esempio. Michele, quindi io ti dico, ascolta sempre la radio e salutami molto il Molise. Adesso invece dal Molise noi dobbiamo andare su un altro pianeta perché è stato fatto il collegamento, sì. Riflessioni da Marte. Da quassù da Marte, osservando sempre con la maggiore attenzione possibile la penisola italica con il fido telescopio, mi è parso di percepire un'atmosfera piuttosto tesa, va detto. Si potrebbe quasi dire che c'è aria di complotto, che potrebbe arrivare anche da oltre confine, come qualcuno del resto ha debitamente confermato. Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro. Gli americani del resto, si sa, sono quelli che se ne inventano davvero sempre una più del diavolo. Pensate che senza dirlo esplicitamente stanno cercando di boicottare, in modo si potrebbe dire peculiarmente cruento, il vincitore delle elezioni italiche. E infatti due giorni fa la notizia di una nuova creazione che sta già letteralmente spopolando in America sono le inedite barrette proteiche a base, udite udite, di grilli triturati. Barrette create a Salt Lake City dall'azienda Chapul, si chiama Chapul, con la convinzione che le proteine di questi insetti siano ben più sane in quanto meno grasse di quelle degli animali d'allevamento. Grillo avvisato. Insomma, venti oscuri soffiano su terra italica, anche se il governatore della Banca Centrale Europea Draghi assicura che comunque vada, l'Italia prosegue sulla strada delle riforme indipendentemente dall'esito elettorale, poiché, dice, il processo delle riforme continua come se fosse inserito il pilota automatico. Insomma, l'Italia come l'aereo più pazzo del mondo. Ma che succede? Abbiamo il diritto di sapere la verità. D'accordo, vi racconterò tutto io. La cosa più importante è che restiate calmi. Non c'è alcuna ragione di allarmarsi. Il nostro capitano ha avuto un malessere. Niente di grave, comunque. Gli altri due piloti, il gatto e la volpe, controllano perfettamente l'aereo. E la fata turchina parla alla radio. Una situazione questa che potrebbe sembrare vagamente confusa, ma che potrebbe invece anche offrire diverse opportunità, magari di lavoro, specie alle donne. Ma guarda quanti bei posti liberi! Di questi tempi, poi, con la crisi che c'è, presidente della Camera, presidente del Senato, presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, Papa, bisogna prepararsi. Bisogna puntare in alto. Questa volta siamo pronte. Per una donna, è più facile diventare cardinale che salire al Quirinale? Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. sempre Roberta Giordano con voi, sempre qui a Non ci sono più le mezze stagioni, con l'opinionista estemporaneo di oggi, giornalista e scrittore Marcello Veneziani. Intanto continua Giorgio De Luca a ricevere centinaia e centinaia di telefonate, quindi tra poco sentiremo di nuovo la vostra voce, ma volevo chiedere a Marcello Veneziani. Marcello, fra le altre cose, che ne pensi di chi si sta preparando proprio azzeccato dietro alle spalle di Bersani tra Renzi e Barca? Sai che si dice che potrebbe esserci, no? Cioè, appena dovesse essere fatto fuori il povero Bersani, che un po' mi dispiace, insomma, diciamo. Ci dovrebbero essere, vabbè, Renzi si sapeva dopo le primarie, dopo la sua campagna ben fatta, eccetera, si capiva che era solo di aspettare un giro e forse mezzo giro e neanche, no? Per essere di nuovo così protagonista. Ma guarda, io ho l'impressione che Bersani, che Renzi non si butti subito se c'è una defaillance, cioè se c'è una caduta di Bersani, perché ora significherebbe soltanto gestire, come dire, spiccioli. Gestire, cioè, sta aspettando una frazione, il momento giusto, certo. E quindi credo che aspetti ancora, aspetti l'altro giro, ma il giro vero, non il mezzo giro, ecco. E quindi credo che stia un po' prudente, questa è la ragione per cui si fa vedere, fa capire che lui c'è. Parla ma poco. evita appunto di fare dei passi avanti, perché tra l'altro vedevo, ecco, questo, un altro sondaggio SVG fatto per Agora su Rai 3. Il 28% degli italiani vorrebbe Matteo Renzi premier, e poi il 14% Emma Bonino al Quirinale, che anch'io avevo fatto un sondaggio sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, e diciamo che il 95%, se il 90-95, aveva scelto fra le donne Emma Bonino per il Quirinale. Che dici, sarebbe ora? Ma io credo che Mabonino abbia un profilo, come dire, biografico incompatibile con mezza Italia cattolica, questo è il vero problema, perché Mabonino non è una persona di qualità. Ha fatto le battaglie, dici, sull'aborto, ha fatto battaglie che mezza Italia condivide con entusiasmo, ma che mezza Italia aborre con altrettanta decisione, insomma. Io sono nella metà entusiasta, comunque. Quindi no, bisogna prendere atto che, insomma, solitamente il capo dello Stato dovrebbe tentare perlomeno di interpretare un po' tutti, quindi solitamente si va verso un profilo più soft. Insomma, ecco, questo è diciamo l'abitudine. Poi, se una volta si vuole fare uno strappo, non so, magari come forse l'Italia avrebbe bisogno di qualche strappo. Senti, Cesare da Latina o da Roma, cioè, è caduto e mi dispiace, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Giacomo dalla provincia di Alessandria, così riprendiamo con le voci degli ascoltatori prima che cadano uno dopo l'altro. Giacomo. Allora, era una precisazione tecnica la mia. Sei un Berlusconi, tecnico? Sì, un tecnico. Berlusconi non ha una congiuntivite, ma ha un'uveite, che è una patologia decisamente più grave rispetto alla congiuntivite. Di solito monolaterale, già 4-5 giorni fa, guardandolo in televisione, ho detto ha qualcosa all'occhio di sinistra. E difatti ha questa patologia e non gli permette, con le terapie che sta facendo, che almeno credo, perché sono universali queste terapie, non riesce a vedere sicuramente da vicino. E quindi, questa è la presbiopia, però, anche la presbiopia, diciamo, no? Sì, ma siccome si usano dei colliri che dilatano la pupilla, lui da vicino non vede, presenti. Comunque. E quindi da un occhio almeno, perché probabilmente ce l'avrà monolaterale, di solito è monolaterale, l'uveite, potrebbe avere dei problemi. Poi senti, spero, ma però, visto che tu sei un tecnico, voglio spiegare una cosa tecnica. Uveite, dici esattamente cos'è la dilatazione della pupilla? L'uveite è un'infiammazione di quella lamina vascolare che c'è tra la retina e la sclera, cioè è all'interno dell'occhio, non è all'esterno come la congiuntiva, è proprio all'interno. Quindi non si può per vedere. È una patologia piuttosto occhio grave, in alcuni casi può anche portare a cecità. In alcuni rari casi, per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Però spero che, soprattutto una cosa, che l'esperto, cioè il medico fiscale, sia un oculista, perché se un medico fiscale normale, come si intende, di occhi non capisce. Se fosse un otorino la ringoiatra, tu dici non capirebbe. Ecco. Vabbè, va bene. È caduto Giacomo? No, sono ancora qui. Molto bene. Giacomo, io ti ringrazio di questa precisazione. Di uveite, quindi uveite. Grazie. Uveite. Invece, di cosa ci vuole parlare Cesare, recuperato? Cesare. Sì. Buongiorno, buongiorno signora Roberta. Non mi chiamare signora, però, che mi viene a me l'uveite se mi chiami signora, per favore. Cosa? Mi viene un po' di uveite se mi chiami signora. Vuoi farla venire anche a me? L'uveite? Ah, non ho capito, va bene. Cesare, chiamami Roberta. Buongiorno, ecco. Buongiorno. La signora. Aspetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, niente, vorrei parlare un attimo in questi giorni si è parlato dei provvedimenti che vuole fare il Movimento 5 Stelle per cercare dove trovare i soldi, dove trovare i soldi per il diritto, il reddito di cittadinanza e tutto il resto. Per esempio, Allora, Allora, innanzitutto non è che uno deve per forza, innanzitutto bisogna dire che bisogna andare verso quella strada, chiaramente i risultati non è che saranno certamente quelli, però vorrei dire alcune cose. Si è parlato del reddito di cittadinanza, allora in parte il reddito di cittadinanza in parte già c'è, tra sussidi di disoccupazione e altri tipi di sussidi che andrebbero riorganizzati, e poi verrebbe va legato ai centri dell'impiego il reddito di cittadinanza. Se uno si rifiuta di fare un lavoro che viene offerto, il reddito di cittadinanza lo perde. E quindi questa mi sembra già una cosa sensata. Il discorso dell'IRAP, si è parlato l'altro giorno pure dell'IRAP. L'IRAP è una tassa regionale, e finanzia la sanità. Allora, nel 2011 l'IRAP ha coperto per il 30% le spese sanitarie delle regioni. Ma lei pensa che in tutta Italia, riorganizzando tutto il sistema sanitario, non si riesce a recuperare il 30% di spese? E al costo zero l'IRAP non si possa togliere? Quello che voglio dire, cioè, se noi continuiamo a dire ma dove troviamo quei soldi, dove troviamo i soldi? Su questo siamo d'accordo, certo, cioè, diventa un buon alibi questo, no? Per non fare tagli, per non riorganizzare. Allora, noi non andremo da nessuna parte. Una è questa, poi vabbè, ci sono tanti altri provvedimenti sulle piccole e medie imprese. Per il momento teniamo presenti questi, Cesare. Ti ringrazio moltissimo e chiedo a Marcello Veneziani che ne pensi, insomma, di queste precisazioni che faceva Cesare. Ma guarda, a me non spaventano le riforme radicali. Per esempio, se qualcuno chiedesse l'abolizione delle regioni, secondo me farebbe una cosa sacrosanta, ed è una cosa ardita ma molto molto importante per il nostro paese, ma quello sarebbe un altro filone. Il discorso sul reddito di cittadinanza non convince, non solo perché si parla di un investimento pazzesco di 40 miliardi di euro all'anno soltanto per i 3 milioni attualmente di disoccupati, ma anche per l'effetto che avrebbe sul paese, perché, ripeto, quando una parte consistente di italiani vive o sopravvive con entrate molto minori dei 1.000 euro previsti per il reddito di cittadinanza, è un formidabile disincentivo a lavorare. È una tentativa... Però spiegava qualche ascoltatore, effettivamente poi l'ho visto anch'io, che c'è tutta una serie di regole naturalmente per ottenerlo, no? Meccanismi, ma si sa che ci sono possibilità di eludere questi meccanismi. Certo, se viene offerta una possibilità di lavoro a una persona e rifiuta, decade dal reddito di cittadinanza. Però ci sono tante condizioni intermedie prima di arrivare a rifiutare, non si creano le precondizioni, cioè, voglio dire, è facile. Io non conosco una società che possa crescere, prosperare, avendo una parte consistente che viene mantenuta. Però mi sembra che all'estero, per esempio in Olanda, paesi del nord, ci sono queste in Francia, cose, no? Si è tentato in Olanda, si è tentato e ha avuto relativa, diciamo, sopravvivenza, non dico successo, in paesi piccoli con una formazione culturale totalmente diversa italiana, lì non sono dei furbi come noi. Da noi sarebbe, a mio parere, devastante. Noi nei paesi latini, insomma, ti devo dire, Marcello Veneziani, prima di risentire ascoltatrici e ascoltatori all'800240024, io dico, si può dire un po' tutto di Grillo, però quando viene fuori, a parte una serie di altre cose, ma anche che Mario Abruzzese, ex presidente del Consiglio regionale del Lazio, che era dentro a questo scandalo dell'utilizzo dei fondi pubblici, dei finanziamenti pubblici per fare qualsiasi cosa, dai SUV alle vacanze, al cinema, eccetera, eccetera, è stato rieletto con un sacco di voti dal PDL, è chiaro che uno vota Grillo, a un certo punto si incavola. Quello che indigna ancora di più, sentivo prima un ascoltatore che giustamente... No, ti dico solo, perdonami, se ritrovo la cifra, sì, ma me la ricordo a memoria, solo nel 2011 Mario Abruzzese Mario, ha speso di soldi pubblici, quindi dei nostri soldi di cittadini, 1.980.000 euro solo di cartoleria tra penne e agende, capisci? Nel 2011 ha speso questa cifra di nostri soldi per comprare agende e penne ed è stato rieletto, invece di PDL di farlo fuori e dire senti vai a fare un altro mestiere. Ti sembra possibile? No, ma lì è sacrosanta la reazione di Grillo, ma non solo, è anche sacrosanta la reazione riguardo alla riduzione del numero dei parlamentari. Certo. Cioè, è folle pensare che quasi tutti i principali partiti italiani hanno nel programma il dimezzamento del Parlamento. Io dico, se siete tutti d'accordo, perché non l'avete fatto prima? Perché non l'avete fatto? E c'è malafede, perché un conto è dirlo in pubblico, un conto è portarlo in Parlamento. E allora, ecco, lì ci sono tutte le ragioni che rendono sacrosanta la protesta di Grillo. Sentiamo allora Claudio da Roma. Pronto, buongiorno Roberta. Buongiorno Claudio. Volevo fare una battuta su quest'ultima dichiarazione di Veneziani, che mi è molto simpatico, tenuto conto che anche lui ha i suoi ideali, la sua ideologia di comportamento, quindi si può pensare anche che con Grillo non è che possa fare molti elogi al Movimento 5 Stelle. Io sono convinto che la legge del dimezzamento del Parlamento dovrebbe essere fatta all'opposizione vuol cacciare via l'altra metà e che al governo vuol cacciare via la metà d'opposizione, ecco l'unica maniera come si potrebbe organizzare una legge del genere. Poi volevo domandare, rispetto all'uveite vorrei fare una statistica e vedere quanti cittadini italiani hanno l'uveite. Tu vuoi fare il sondaggio tribunale. Adesso qui? Quanti, è una battuta ironica, sì. Quanti hanno potuto dissertare il tribunale con uveite? Guarda, all'inizio comunque sembrava, scusami, resta pure in linea Claudio, che fosse un legittimo impedimento, invece la notizia che vi ho dato all'inizio della trasmissione, che era appena arrivata dalle agenzie, è che non vale l'uveite, insomma, il problema che avrebbe Berlusconi, secondo i medici andate a fare questa visita fiscale, non vale come legittimo impedimento, quindi il processo va avanti. Ecco, questo poi è chiaro. C'era, no? Un'altra battuta su un giornale che un dottore domanda al dottore di Berlusconi, dice: guarda, ma lei non è che c'ha l'uveite, lei c'ha la faccia come il Deredano, e di rimando il dottore fa, dice: allora c'ha le emorroidi. Questo è Vauro, l'ho visto oggi sul Fatto Quotidiano, grazie di questa precisazione. Allora, dicevamo, cara Valentina da Cuneo, sinteticamente del Movimento 5 Stelle. No, io dicevo che vorrei ricordare che il popolo si è espresso, in realtà non ha vinto il PD, perché secondo questa legge elettorale ha vinto il PD, ma con le sue coalizioni, in realtà Grillo ha preso molti più voti. Sì, come partito unico, diciamo, certo, il PD è coalizione con Vendola, con i socialisti. E vorrei ricordare che il programma del Movimento 5 Stelle è assolutamente un programma innovativo, un programma al quale i vecchi professori della cassa e che continuano a sedere su quelle poltrone non hanno mai realmente pensato e realizzato, non si sono mai affacciati a quelle realtà europee che davvero funzionano, prendendole da modello e cercando di attuare i pregi di quelle innovazioni all'Italia, che hanno perso assolutamente il senso della realtà, della famiglia, dell'operaio che perde il posto di lavoro, dell'operaio che è in cassa integrazione per dei mesi e che deve cercare assolutamente di mantenere la sua famiglia in qualche modo. Questi sono problemi che la gente che ci ha governato fino ad oggi ha totalmente perso di vista e che sicuramente questi personaggi hanno assolutamente paura di perdere la poltrona che a oggi gli ha garantito un sacco. Sì, è vero, sono spaventati tutti, sia PD, PDL. Valentina, io ti ringrazio perché adesso gli ascoltatori e le ascoltatrici anche della pagina Facebook, non ci sono più le mezze stagioni, avrebbero un po' diritto a spazio perché hanno scritto veramente tanto questa volta. Per esempio Silvia diceva che non è d'accordo col vincolo che a proposito del Movimento 5 Stelle Grillo dà a chi si iscrive al movimento, devono avere assolutamente la cittadinanza italiana, lei dice che non è giusto escludere magari tante persone in gamba. Poi Daniela invece dice lui vuole abolire il finanziamento pubblico ai partiti perché lui dice il finanziamento lo prende dai cittadini sulla rete internet, incassa milioni secondo lei, poi questo è ancora da verificare. Mentre mi scrive un ascoltatore sulla mail, Mattia Oliva, che mi propone un governo Stella Rizzo, Gian Antonio Stella e con Rizzo, giornalista del Corriere della Sera, che ogni tanto sono qui e non ci sono più le mezze stagioni, dice coloro che hanno aperto gli occhi ai cittadini sui costi della politica. Per un anno li vedo con riforme sui costi della politica, riforma legge elettorale, cioè che ne penso? Beh, penso che sarebbero due tipi in gamba, effettivamente. Poi per quanto riguarda invece su cosa deve fare Bersani a questo punto d'impasse, ci sono moltissimi interventi, ne leggerò giusto qualcuno, Emanuele dice di mettersi, come tantissimi altri, devo dire, sulla pagina della trasmissione. Massimo anche lui dice di mettersi, Lorenzo dice in un paese normale dovrebbe chiedere appoggio del PDL, il PDL dovrebbe darglielo, ma purtroppo dice otterrebbe tre cose importanti: governerebbe, allontanerebbe lo spettro Renzi, metterebbe Grillo in naftalina se si alleasse col PDL, quindi è per il governissimo. Massimo, Roberta dice anche lei di mettersi, Luca a sua volta dice ritornare al voto. Daniela scrive: innanzitutto il giorno della discussione in Senato sulla fiducia del governo Bersani si dovrebbe mettere su tutte le piazze italiane i maxi schermi così da seguire il popolo italiano, così che il popolo italiano potesse seguire in diretta, poiché il momento del paese è drammatico, è giusto che la gente segua con chiarezza chi vuole continuare in questa situazione di grave crisi, dimostrare insomma chi come Grillo ha urlato nelle piazze plagiando milioni di persone e dandogli l'illusione di risolvere i problemi, cioè non è in grado di governare, mentre il PD sì. Stefano, mentre noi passiamo il tempo a votare il paese, chi lo guida per chi dice che bisogna tornare al voto? Elena, dare le dimissioni Bersani, governo tecnico con una nuova legge elettorale e si torna al voto. Danilo dice che deve smettere Bersani di fare 21 ventriloquo di D'Alema. Corrado, andare fino in fondo e farsi dire no dal comico isterico, sarebbe Grillo, e poi chiedere dopo elezioni nuovo presidente delle elezioni anticipate immediate. Luigi per Luigi dovrebbe sparire, Armando dice deve fare come il Papa, Sergio non deve fare adesso, doveva farlo prima e lasciare il posto a Renzi, così molti di nuovo ritornano sulla questione Renzi. E poi Fabrizio dice modifica della legge elettorale con qualche maggioranza, cavarsi e tornare a votare. Per Santina, Bersani ha la maggioranza assoluta, almeno alla Camera, deve andare avanti con il suo programma con coerenza, eletto dai suoi elettori. E moltissimi altri, devo dire, tanti interventi sulla pagina Facebook, continuate pure, ma a questo punto noi abbiamo un appuntamento irrinunciabile. Il nostro Giuseppe Busia, esperto di diritto costituzionale, per capire un po' di più in questa confusione data dal Porcellum, che cosa è ipotizzabile nei prossimi giorni, Giuseppe? Beh, innanzitutto adesso si riuniranno le Camere per la prima volta, si apriranno il 15 marzo, se non sbaglio, però sì, è possibile, è possibile che si formeranno i gruppi parlamentari e questo dà la possibilità, oltre alle leggi dei presidenti di Camera e Senato, ci saranno i presidenti di gruppi e quindi il Presidente della Repubblica potrà dare avvio alle consultazioni, cioè sentire chi concretamente siede in Parlamento e capire che idea hanno per la formazione del governo, che intenzioni hanno al di là delle dichiarazioni di stampa su internet finora rilasciate. A quel punto il Presidente della Repubblica dovrà affidare un incarico a qualcuno, cioè a un Presidente del Consiglio in pectore con un mandato più o meno forte, più o meno esplorativo, e normalmente potrebbe anche accettare subito, in una fase di così grande confusione, il Presidente incaricato accetterà con riserva e lui a sua volta sentirà un po' le altre forze politiche, avrà un po' di contatti, tornerà dopo qualche giorno al Quirinale dicendo com'è andata e se le cose sono andate bene si potrà arrivare alla nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che a quel punto si presenteranno in Parlamento per avere la fiducia, perché il vero muro che si ha davanti è quello di avere la maggioranza, non solo alla Camera dove un partito ce l'ha già in tasca, ma soprattutto al Senato dove l'incertezza è massima. E quindi sostanzialmente dopo le elezioni così incerte come quelle che abbiamo avuto si apre questa fase complessa di negoziazione politica in cui inizialmente nella Prima Repubblica erano i partiti a farla da padroni, in questo momento di grande incertezza è molto anche il Presidente della Repubblica col suo ruolo, con la sua capacità di far sì e vedere se le forze politiche possono o vogliono assumersi la responsabilità di votare un governo. Non resta che vedere insomma cosa succede nei prossimi giorni. Grazie Giuseppe Busia. Grazie a te. Esperto di diritto costituzionale, io volevo chiederti, Marcello Veneziani, secondo te a questo punto Bersani e Berlusconi potrebbero farsi da parte definitivamente, per esempio? Quella sarebbe già una grossa cosa, cioè se loro riuscissero ad approvare un disarmo bilaterale, cioè tutti e due fanno un passo indietro, mandano avanti due persone che tra loro possono dialogare, e quella può essere già una possibilità, ecco, quella sarebbe già una strada. Ovviamente si può anche istituzionalmente prevedere che Bersani faccia prima il suo tentativo, perché è legittimo, ha la maggioranza in Parlamento, certo. Quindi faccia il suo tentativo. Il tentativo, come si prevede, non andrà a buon fine, e allora magari ecco lì dovrebbe scattare l'intelligenza e anche la capacità di sacrificarsi per il paese, cercando di... Ecco, al contrario, quindi, il sacrificarsi al contrario, mentre tutti hanno detto scendo in politica, a partire da Berlusconi, per sacrificarmi per il bene del paese, fatelo invece al contrario, per il bene del paese, certo. Levatevi di mezzo. Senti, a proposito invece di altre elezioni, c'è stato un sondaggio tra i cattolici statunitensi fatto dal New York Times e dalla CBS. E da questo sondaggio emerge questo: il prossimo Papa, dicono i cattolici statunitensi, dovrebbe essere più moderno, cambiare direzione su temi come il controllo delle nascite, il matrimonio tra omosessuali e l'ordinazione delle donne. Io sono perfettamente d'accordo, tu probabilmente no. Guarda, io credo che ognuno debba fare, come dire, il suo mestiere. Il Papa deve rispecchiare una tradizione, una visione del mondo che è quella che gli è stata consegnata. Ma Gesù pensava questo? Ma Gesù pensava queste cose? Ma io dico, se vogliamo dalla Chiesa un atteggiamento che è completamente estraneo ai suoi principi, cioè all'ordine naturale, a principi che non sono solo superstizioni o leggi o abitudini che si trascinano, ma sono visioni del mondo. E ma Gesù... ognuno ha il diritto di pensarlo, ma che vada fuori, cioè perché deve farlo in chiesa? Secondo me Gesù la pensava diversamente sull'apertura verso il prossimo, ma comunque tutto un argomento che potremo ritrattare prossimamente con Marcello Veneziani, con voi ascoltatrici e ascoltatori. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.